faccio così. So che non ci vedi niente in quei frocci della TV. Vorrei portarti a Parì, ma sto sotto i portici. Coi miei amici poco chic, sempre sotto Perigi. Ho la faccia da TG e gli sbatti per la weed. Troppi scazzi con ste bitch, mi hanno voluto così. Solo per te muovo il mondo senza muovermi da qui. Tu puoi chiedermi di tutto e ti dico sempre di sì. Regali troppo costosi, ma non vivo dentro a un film. Ne ripendo sotto banco in giro a Cinisello Beach. Sai che soldi non ne ho, ma se vieni te li do. Glieli chiedo ad un mio bro, me li presta per un tot. Sa che poi glieli ridò. Si sa che basta che...